tutti quelli che ci vogliono stare dentro, alla periferia di nessun centro. Giova a me, giova a te, giova a tutti quelli che ci vogliono stare dentro, alla periferia di nessun centro. Uno per il cesso, due per la cicogna, tre per il ruscello, quattro per la fogna. Io sono l'MC, il cerimoniere, sono la maîtresse, sono il pasticcere. Giova a me, giova a te, giova a tutti quelli che ci vogliono stare dentro, alla periferia di nessun centro. Sono a metà strada nella selva oscura, uno per la tecnica, due per la natura. Cerco il mio Virgilio, morto di overdose, cerco la Beatrice, ma oggi ha le sue cose. Cica cica boom, ho una cicatrice, sembra un tatuaggio, sai che cosa dice? Fin qui tutto bene, quindi procediamo. Uno per il pesce, due per l'amo. Sono il pescatore, a mia volta pescato. Sono il peccatore, sono il peccato. Chi inventò il dubbio che gli spacco il culo? Si sta così bene quando si è al sicuro. Faccia sotto al sole, verità in tasca, come un pesce d'allevamento dentro una vasca. Crescere un problema, disse il bonsai. Il baba rispose, accontentati di quello che hai. Chissà perché, rispose il piccoletto, sono sempre grandi a fare il pistolotto. Uno per il baba, due per il bonsai, tre per chi sempre, quattro per chi mai. Giova a me, giova a te, giova a tutti quelli che ci vogliono stare dentro, alla periferia di nessun centro. Cica cica boom, altra cicatrice, sembra un tatuaggio, sai che cosa dice? Fin qui tutto bene, quindi andiamo avanti. Uno per chi pochi, due per chi tanti. Date al diavolo un bimbo per cena, uno, due, tre ragazzini. Date al diavolo un bimbo per cena, 10, 100, 1000 bambini. Luce stroboscopica, lampada di wood, verbi regolari, understand, understood. Danze figurate, marce militari, uno per la polvere, due per gli altari. Io sono una piazza, io sono una strada, io sono il cavallo, io sono la fiata. Io sono nessuno, tranne per qualcuno. E tra un pasto e l'altro per protesta digiuno. Onda dopo onda, cambia il mio contorno. Io sono la pizza, io sono il forno. Troppa pasta asciutta mi può strangolare. Troppa informazione mi fa ragionare. Troppa libertà mi ha fatto inceppare. Troppa verità mi ha fatto impazzire. Io sono Clark Kent, sono Superman. Ho superpoteri quando parte la jam. Il mondo è la mia casa, il cielo è il mio tetto. Ho perso le chiavi, sto qui fuori, aspetto. Guardo dentro al buco, pezzi di nirvana. Fuggo da un eterno fine settimana. Uno per lo yoga, due per la scintilla, tre per l'antibiotico, quattro per la villa. Giova a me, giova a te, giova a tutti quelli che credono in solo Dio, padre onnipotente, creatore di chi crede e di chi non è credente. Niente più carezze, disse il bagnasciuga. Grattami la schiena, disse la tartaruga. Ho il mio cucchiaino, io per travasare il mare. Fin qui tutto bene, posso continuare. Ho una cicatrice, sembra un tatuaggio. Sai che cosa dice? Avanti, coraggio. Giova a me, giova a te, giova a tutti quelli che ci vogliono stare dentro, alla periferia di nessun centro. Giova a me, giova a te, giova a tutti quelli che ci vogliono stare dentro, alla periferia di nessun centro. Date al diavolo un bimbo per cena, uno, due, tre ragazzini. Date al diavolo un bimbo per cena, 10, 100, 1000 bambini. Voglio sentire tutti voi abitanti di Marte dire oh yeah. E adesso voi abitanti di Venere dite oh yeah. Cambiando, questo non è mai cambiato. Guardami un secondo, sono già invecchiato. Plastica facciale, assicurazione. Uno per il cuore, due per la ragione. Sole, luna, bionda e bruna. Fila di cammelli davanti alla cruna. Tutti vivi in paradiso, chi bene e chi male, solo certi ricchi in paradiso fiscale. Ciga ciga boom, ho una cicatrice, sembra un tatuaggio, sai che cosa dice? Il mondo è una domanda che aspetta una risposta. Ogni luogo è un divieto di sosta, l'equilibrio statico è un calcolo dinamico. Eccoti un coltello, cazzo non hai il manico, quindi stai attento che puoi farti male. Ho una conoscenza, dimmi quanto vale, sono un chiacchierone, santa inquisizione, giudicami eretico, mettimi in prigione. Martiri del rap, vivi per miracolo, come un cavallo io salto l'ostacolo, fino a che l'ostacolo è più alto di me. In questo caso io incolperò te, semi in silicone, maschera di fango, fa una grande ombra, l'albero di mango. Sono omologato, sono colonizzato, ma se ti avvicini puoi sentire il mio fiato. Tutta roba vera, pane con panatico, sono calamita, zero elettrostatico. C'era Sgt. Pepper, io stavo nascendo, un capolavoro, sai che cosa intendo? Giova a me, giova a te, giova a tutti quelli che... Un giorno nella rete io ci ho incontrato un pesce, subito mi ha detto tu sai come s'esce. Gli ho risposto no, forse lo sai tu, e ci siamo messi a guardare la TV. Chi conosce il mare lo sa rispettare, molti marinai non sanno nuotare. Chi conosce il ritmo sa che il tempo vola, va più veloce di una bollicina nella Coca-Cola. Se io fossi eletto già nel primo mese fonderei il ministero delle sorprese, tutte positive naturalmente. È il tuo compleanno improvvisamente, sono l'ambasciatore di un posto migliore, sono il diplomatico del rumore, ministro delle poste e telecomunicazioni. Buono tra i cattivi, cattivo tra i buoni. Ho una cicatrice, resta sempre aperta, come la legge di domanda ed offerta. Dici tutto bene, non ti preoccupare, ma ti vedo strana e non so che fare. Uno per il letto, due per il calore, tre per la forchetta, quattro per l'amore. Sono fatte di lacrime l'entrata e l'uscita, sono innamorato, questa sì che è vita. Sentirò sto pezzo nel 2039, 73 anni, sarò chissà dove. Mi prenderò a schiaffi se non sarò vivo. Uno per chi ascolta, due per chi scrivo. Hai sentito un tac? Pronti tutti in scena, colazione, pranzo, pomeriggio e cena. Il senso della vita io forse so qual è, ora non ricordo ma io so che c'è. Sta da qualche parte, forse sotto un sasso, anzi se lo trovi passalo qui in basso. Uno per il ritmo, due per la parola, tre per la strada, quattro per la scuola, cinque per chi insegna, sei per chi impara, sette per chi gioca, otto per chi bara. Sono a metà strada nella selva oscura, uno per la tecnica, due per la natura. La parola fiore non ha nessun odore, la parola ritmo non mi fa ballare. Vivere la vita fino ad ubriacarsi, essere presenti fino ad annullarsi. La parola magica è sempre la stessa, simsalabim, cara principessa. Sono un italiano, buongiorno, buonasera, giro per il mondo e esporto primavera. Uno per l'inizio, due per la fine, quattro per il vento che passa sul confine. Stemmi di famiglia, impronte digitali, mappe del genoma, feste parrocchiali. Lame di macete, code di comete, cibo per chi ha fame, acqua per chi ha sete. Amico per denaro, denaro per amico, già che da un milione foglie di fico. Guarda l'orizzonte, sembra verticale, guarda la mia faccia, sembra carnevale. Sovrannaturale, un piatto regionale, uno per la Pasqua, due per il Natale. Calorie in eccesso, beta carotene, lecca quel gelato, tra un secondo viene. Quanta vita elettrica che passa in questi cavi, partono per Marte le nostre astronavi. Si mangia e poi si vomita nelle ville patrizie, chissà che vita c'è fuori dalle notizie. Hanno ucciso il re, regna la sua corte, uno per il calcolo, due per la sorte. Porte sbarrate, sacchi di sabbia, ci sta una tigre fuori dalla gabbia. Tutto prevedibile, anche l'incertezza, uno per il pugno, due per la carezza. Hotel, motel, holiday in. You say one for the trouble, two for the bass, come on girl, let's rock it. C'è molta violenza chiusa dentro i cuori, quasi come quella che ci sta di fuori. L'esagramma 4, muto è 26. Io sono la musica, io sono il DJ. In fondo alla notte ci sta la mattina, arriva fino al mare l'acqua della mia piscina. Io sono la forma, sono il contenuto, io sono la bocca, io sono lo scudo. Io sono il vinile, sono la puntina, io sono la presa, io sono la spina. Fontana di dolore, albergo d'ira, scuola d'errori. Senti come gira, sopra questo ritmo mi ci spaparanzo. Sono una scintilla, sopra il fuoco da. Sono Peter Parker, sono Spider-Man, volo tra i palazzi quando parte la jam. Sono Costantino di secondo nome, uno per il cosa, due per il come. Abito in collina sulla Sugar Hill, vendono i miei dischi anche nell'autogrill. Cica cica boom, ho una cicatrice, sembra un tatuaggio, sai che cosa dice? Oggi tutto quadra, apri quella porta, c'è una ciliegina sopra la tua torta. Dionisio ed Apollo sono i miei cugini, Pippo e Tabeta sono i miei padrini. Uno per la fama, due per la classifica, tre per la famiglia, quattro per la critica. E chi pensa a me? Dai, ci penso io. Date al diavolo figlio di Dio. Io sono le ossa, io sono la pelle, e torno fuori a rivedere le stelle. Io sono un etrusco, sono americano, vado verso ovest con il cuore in mano. Il limbo è una danza, è un luogo di innocenti, è il fondale per fotografare tutte le cantanti. Mi batte il cuore forte, forte, forte, forte, forte, esplode in me la vita, fa anche alle sue porte. Cica, cica, boom, ho una cicatrice sembra un tatuaggio, sai che cosa dice? Hai avuto culo in quell'incidente, ma non hai detto che ti vada bene sempre. Uno per il suono, due per il vinile, tre per l'invenzione, quattro per lo stile. Guarda l'orizzonte, disse il capo indiano, questo è il mio palazzo, disse il sultano. Io sono la zingara, lei con la tua mano. Oh mio cavaliere, portami lontano. Cuore della tenebra, mostrami l'orrore. Cuore della luce, mostrami l'amore. Cuore del cocomero, mostrami il sapore. Cuore del computer, mostrami il mio cuore. Erra sia chi sbaglia che chi è vagabondo, ma se io non erro poi non so com'è il mondo. Se ci fosse il modo pagherei un milione per ogni volta che mi eviti una decisione. In meditazione io medito la fuga, ma tanto prima o poi vince la tartaruga. Per guardarsi dentro servono le tac, donale dei fiori ma che siano di Bach. Io sono Schumacher dentro l'abitacolo, dammi un po' di ritmo che io ti do spettacolo. Il mondo è una giungla, io sono il dottor Livingstone. Il mondo è un computer, io sono Negroponte. Se il mondo è da ballare, io sono Fred Astaire. E io sono Keith Jarrett, se il mondo è pianoforte. Mi sono innamorato della vita, guardandola attraverso gli occhi dell'amore mio. Così rotonda e così misteriosa, leggera, profonda, bellissima e paurosa. Per niente pittoresca, né rassicurante. Uno per l'orecchio, due per il cantante. Io sono una foglia attaccata al ramo, prima di cadere ti dirò ti amo. Io sono una foglia attaccata al ramo, prima di cadere ti dirò ti amo.